Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Si apre lo sportello destro. Scende una ragazza. Capelli neri, lunghi, jeans e scarpette da ginnastica. Io parto e osservo la ragazza. Lei, senza guardare, fa l'autostop. Ciao, sono Marco, vivo a Milano e prima facevo il camionista, adesso faccio l'artigiano. Dal fianco della collina, che qui era scoscesa e pietrosa, una cascata di ciottoli franò e precipitò rumorosamente rimbalzando tra gli alberi. Istintivamente volsi lo sguardo in quella direzione e vidi una figura che saltava con grande rapidità dietro il tronco di un pino. Cosa fosse, se un orso, un uomo o una scimmia, non avrei potuto dirlo. Era scura, pelosa, di più non sapevo. Ma il terrore di questa nuova apparizione mi paralizzò. D'improvviso la figura riapparve, facendo un largo giro cominciò a tagliarmi la strada. Ero stanco, questo è sicuro, ma fossi anche stato fresco come appena alzato, capii che sarebbe stato inutile gareggiare in velocità con un avversario simile. La creatura saltava da un tronco all'altro come un cervo, correndo su due gambe come un uomo, ma in modo diverso da qualsiasi uomo avessi mai visto in vita mia, poiché mentre correva stava quasi piegato in due. Eppure era proprio un uomo, ormai non avevo dubbi. Mi tornò in mente quello che avevo sentito dire sui cannibali e fui lì per chiedere aiuto, ma il fatto stesso che si trattasse di un uomo, seppur un selvaggio, in qualche modo mi rassicurava. Perciò rimasi immobile, cercando di escogitare una scappatoia. E mentre così pensavo, in un lampo, riebbi l'immagine della mia pistola. Appena mi ricordai che non ero disarmato, il coraggio mi rianimò e affrontai risolutamente l'uomo dell'isola, avviandomi spedito verso di lui. In quel momento si era nascosto dietro un albero, ma doveva osservarmi da vicino, poiché non appena mi mossi nella sua direzione, riapparve e fece un passo verso di me. Poi esitò, indietreggiò, venne di nuovo in avanti e infine, con mia grande sorpresa e confusione, si buttò in ginocchio con le mani giunte in questo tono supplichevole. A quella vista mi fermai di nuovo. «Chi siete?» gli chiesi. «Ben Gunn», rispose, e la sua voce risuonò roca, stridula, come una serratura arrugginita. «Sono il povero Ben Gunn, ecco chi sono, e non parlo con un cristiano da 3 anni». Buongiorno a tutti, Radio 24, Matteo Caccia, voi siete qui, ma soprattutto questo pezzo dell'Isola del Tesoro. Questo è il capitolo 15, si intitola L'Uomo dell'Isola. Se lo conoscete, quando appunto l'avete sentito, Ben Gunn, questo tizio che vive lì da 3 anni, abbandonato, incontra finalmente Jim, che è il protagonista. Ogni giorno un piccolo pezzo dall'Isola del Tesoro fino a venerdì, ma soprattutto ogni giorno un racconto, questa settimana, che parla di avventura. Voi siete qui, Radio 24, è il nostro profilo Facebook, voi siete qui, R24, è il profilo Twitter, ma soprattutto voi siete qui, @radio24 è l'indirizzo email a cui continuare a mandare le vostre storie. In questi giorni, visto che raccontiamo storie di avventura, è naturale, cominciamo a ricevere mail che raccontano di episodi avventurosi della propria vita, ma potete mandare qualsiasi tipo di storia. Siamo in onda da 3 anni, la prossima stagione sarà la 4ª, e quindi vi chiediamo di mandarci le storie che più vi rappresentano, storie che in qualche modo raccontino qualche cosa di voi. Una pagina, voi siete qui, @radio24.it, vale tutto, vale la vita passata, quella presente, quella futura un po' difficile, vale l'amore, il lavoro, l'amicizia, voi siete qui, @radio24.it. C'è in onda, è stato in onda negli Stati Uniti nei mesi passati, una serie televisiva che si chiama Fargo, che è tratta proprio dal film dei fratelli Coen, e l'inizio di Fargo, con Billy Bob Thornton, che è straordinario, i fratelli Coen che la producono, non so se arriverà mai in Italia, ma in qualche modo la riuscite a trovare, sono 13 episodi molto molto belli, e comincia quasi in un modo simile a come comincia il racconto che sto per leggervi di Marco. È una notte, è notte, fa un gran freddo, c'è questo tizio in automobile e a un certo punto succede qualcosa, non è l'autostop ma succede qualcosa, e da lì parte l'avventura. È un po' l'avventura simile a quella di Marco, che faceva il camionista, e io me la immagino un po' così la vita dei camionisti. Non so se ci state ascoltando in questo momento, immagino di sì, sono moltissimi gli autotrasportatori, ma immagino che abbiano delle vite avventurose, non fosse altro perché sono sulla strada tutto il giorno. 349 238 6666, state comodi, immaginate di essere sulle strade della Francia del nord, è buio, fa freddo, e a un certo punto una donna appare sul ciglio della strada. Era una notte di venerdì, metà novembre. Cielo pulito e stellato, luna piena. Freddo pungente, fuori c'erano meno 4 gradi. Io ero al caldo, dentro la cabina del mio camion. Guidavo e pensavo a mille cose, come tutte le altre notti. Arrivo ad un semaforo alla periferia di Strasburgo, strada deserta, semaforo rosso. Di fronte, sul lato opposto, una Renault 5. La guardo incuriosito, non se ne trovavano più in giro. Si apre lo sportello destro, scende una ragazza, capelli neri, lunghi, jeans, scarpette da ginnastica bianche, una maglietta bianca, maniche corte. Non riuscivo a vederla bene in viso. Attraversa la strada, mi passa davanti e si ferma sul lato destro del semaforo. In un attimo, mille pensieri mi attraversano la mente. Chi è? Strano, con questo freddo vada in giro vestita così. Forse hanno litigato in macchina. Nel frattempo scatta il verde. Il tipo con la Renault mi incrocia a sinistra. Ci guardiamo, mi sorride e va via. Io parto, tornando a guardare la ragazza. Lei, senza guardarmi, fa l'autostop. La mia mente viaggia a 3000. La prendo, non la prendo, forse una prostituta. Vabbè, al massimo la scarico alla prossima area di servizio. Mi capitava spesso di far salire persone che mi chiedevano passaggi, ero molto ottimista, quindi mi fidavo di tutti, sempre mantenendo una certa attenzione. Mi fermo, lei apre lo sportello e io le chiedo dove va. Mi dice: vado Mulhouse. Va bene, sali. Mentre sale sto molto attento a guardarmi intorno. Non mi curo tanto di lei. Lei intanto si accomoda. Tutto tranquillo, si riparte. Le chiedo come si chiama e come mai si trova lì a quell'ora vestita in quel modo. Lei non ha tanta voglia di parlare. Mi risponde solo che si chiama Alina. Resta nel suo, guardando fuori dal finestrino. Dopo 5 minuti avevo già decisa di farla scendere in area di servizio. Mancava mezz'ora circa. E poi a un certo punto lei mi chiede: la vedi quella stella? Io, senza guardare, rispondo di sì. Ecco, quella è la mia stella portafortuna, mi dice. Lei sa tutto di me. E ogni volta che mi appare io sono felice. Stasera mi ha dato la forza per cambiare la mia vita e sono stata fortunata ad incontrare te, perché so che sei un bravo ragazzo. A quel punto io ovviamente iniziavo a pensare che fosse pazza. E quindi mi preoccupo ancora di più. Le chiedo: che cosa vai a fare a Mulhouse? Vado dai parenti di mia madre. E perché parti a quest'ora? Non parto, mi dice. Sto scappando. E che è successo? Non ho voglia di parlarne. E poi si rifugia nel suo silenzio. Nel frattempo si avvicina all'area di servizio. Avevo già programmato di prendermi un bel caffè alla circa 1:30 di notte. Le chiedo se vuole un caffè anche lei e lei mi dice: vorrei mangiare un panino ma non ho soldi. No problem, offro io. Parcheggio, spengo il camion. Lei apre lo sportello per scendere. Fuori ci sono meno 6 gradi. E allora la fermo, le offro un mio giubbotto. Mi guarda, sorride, lo indossa e mi ringrazia. Resta però sempre distante, diffidente. Entriamo, non c'è nessuno a parte il cassiere. Prende un tramezzino e un'aranciata. Io prendo un caffè al distributore automatico. Ci appoggiamo allo stesso tavolino rotondo. La osservo meglio. Pelle scura, viso lungo, delicato. Le chiedo: di dove sei? Mia madre è algerina, io sono nata in Francia. Da madre e padre algerini, mi risponde. Per un attimo incrocio i suoi occhi, sono neri, profondi ma pieni di luce. Lei li abbassa subito. Guardo meglio la sua maglietta e vedo che è sporca. Le chiedo se vuole cambiarla. Te ne regalo una a tua scelta. Mi dice che vorrebbe fare una doccia perché non si lava da una settimana. Ok, vada per la doccia. Vado in cabina, prendo il borsone con la mia roba e le dico che bisogna cambiare anche i jeans. Ok, tutto fatto. Prende un paio di pantaloni, una maglietta e una felpa. Pago e le dico che l'aspetto in cabina. No, I couldn't tell you how the house burned down last night while we minuti la vedo tornare con il mio borsone a tracolla. Sale, mi guarda e mi dice: adesso sto meglio. Si avvicina e mi dà un bacio leggero sulle labbra. Mi sussurra un grazie. Sorride con i suoi denti bianchissimi. Ci rimettiamo in viaggio, lei torna nel suo silenzio. Io, da eterno solitario, inizio già a provare fastidio per la sua presenza e penso a dove poterla lasciare. Intanto sono quasi le 3 della mattina. Lei si è addormentata sul sedile, ma è scomposta, scomoda. Allora la chiamo, apre gli occhi e le dico che può stendersi dietro sul mio lettino. Lei acconsente, nel frattempo io inizio a sentire tutta la mia stanchezza. Sono 8 ore che guido e devo fermarmi. Mancano pochi chilometri per Mulhouse. Penso di arrivarci e scaricarla per poi dormire tranquillo fino alle 10. Però mi dispiace svegliarla. Entro in un parcheggio, spengo. Resto un po' sul sedile a fare il resoconto della giornata. Lei si sveglia, fa capolino da dietro e mi chiede perché siamo fermi. Sono stanco, dico, ho finito le ore. Si alza, mi chiede se deve andare. Le rispondo: forse meglio di sì. Era sempre sulle sue, era per un attimo, come poi racconto, ho pensato di lasciarla andare subito, di fermarmi subito. Si alza, infila le scarpe, i capelli neri lunghi le coprono il viso. Io accendo tutte le luci interne, vedo che sta piangendo. In silenzio le lacrime le cadono sulle scarpe. La prendo per un braccio e la tiro a me. Lei mi abbraccia forte, mi dice: non lasciarmi andare, ti prego. Poi si stacca, si allontana e alza la maglietta. Non avrei mai voluto che lo facesse. La pancia e le spalle sono piene di lividi. Continua a piangere. Mi dice che il nuovo compagno della madre ha abusato di lei per 6 anni. La madre non lo sa. Lei non vuole denunciarlo, altrimenti caccerebbe sua madre di casa. Non hanno parenti in Francia e non vuole che sua madre viva per strada. Mi dice: ho sopportato tutto questo per lei. Sono rimasta chiusa in casa per 2 anni perché il suo uomo non voleva farmi uscire, era geloso. Questa notte, mi dice poi, ho visto la mia stella che brillava più forte e mi ha dato il coraggio per scappare. Io sono sconvolto. Va bene, penso. In fondo vivo da solo su un camion come uno zingaro. Ho amicizie in mezza Europa e non cambierebbe nulla portarla con me in giro. Chiedo se ha i documenti. Mi fa vedere il passaporto francese. Ok, è fatta. Le chiedo se vuole stare con me. Lei mi si butta addosso e non smette di piangere. Let's go with the wind, we go with the wind, we'll go where the time is right. Oh, we'll go with the wind, we go with the wind, we'll go where the time is right. Will you go with the wind, will you go with the wind, will you go where the time is right? And will you let me in, will you ever let me in, will you let me in this time. Ed è, immagino, col suo bambino, con suo figlio Marco, nella foto che ci ha mandato e che trovate come al solito sul nostro sito radio24.it, alla nostra pagina Voi Siete Qui. Sono su una spiaggia che sembra bellissima, anzi su un lettino su una spiaggia assolata, ed è proprio una bella foto da mese di luglio. Pronto Marco? Pronto. Ciao, buongiorno, come stai? Ciao, bene. Grazie. Dove ti trovi? Sei al lavoro, Marco? No, adesso sono in macchina, stavo andando da un cliente. Oh, ok. Perché non sei più autotrasportatore? No, ho finito, è un lavoro pesante, non si può fare, dopo una certa età non si può più fare. Per quanti anni l'hai fatto? 20 anni. Ah, mazza, per tanto, quindi. Ho perso la mia giovinezza, dai 19 fino ai 40. Senti, quanti chilometri hai fatto? Hai mai fatto un calo? Però di media, quanti chilometri fa un autotrasportatore in un anno? Calcola che possono fare 15.000 km al mese, tutti. Al mese, già così me lo complichi, quindi 180.000 all'anno. Sì, anche 200.000. Fai 200.000 all'anno, l'hai fatto per 20 anni, quindi vengono 4 milioni di chilometri. Sì. Wow, che numero pazzesco, 4 milioni di chilometri, una roba che solo a pensare mi viene, non so, mi tremano le gambe. Tra l'altro, grazie anche per la storia, che guarda, è una storia talmente bella, irreale, che in alcuni punti sembra quasi, come dire, sfuggire alla concretezza delle cose, però immagino anche che, insomma, un autotrasportatore faccia degli incontri veramente assurdi sulla sua strada. Ma Io ho fatto sempre l'estero, cioè sono stato, il mio maggiore lavoro l'ho svolto sempre all'estero. Questa è una storia, ne capitano di tutti i colori, me ne sono capita. Poi una persona, diciamo, predisposta agli altri, se le cerca, di buone e di cattive. Questa è una storia che mi è rimasta impressa per tanto tempo, anche se sono passati ormai 11-12 anni, e ho voluto incorniciarla, tutto certo, qua. Lo immagino. Senti, ma ti manca un po' quella vita lì? Ti manca qualcosa di quella vita lì, oppure era troppo faticosa? La libertà, mi manca la libertà. Quella vita è una vita che si inizia per passione, poi diventa una continua sopravvivenza, però alla fine ti rendi conto che una volta che sei nel tuo camion, nella tua cabina, nessun altro può dirti qualcosa, perché è la libertà di è la vita di uno zingaro. Sì, infatti dici, vivo come uno zingaro e sono un po' in giro dappertutto in Europa. Li senti ancora gli amici che avevi no, in giro? No, ho perso tutto, ho perso qualsiasi contatto, anche perché io ogni stato, io parlo tre lingue, l'inglese, lo spagnolo e il francese, quindi dove non arrivavo con l'una, arrivavo con l'altra. Certo. Ogni stato avevo un amico, un punto fisso. Quindi sì, mi è rimasto un amico in Belgio con il quale ogni tanto ci sentiamo, ma gli altri sono sfuggiti tutti. Marco, da quanto fai un altro mestiere? 10 anni. E che, posso chiederti che mestiere è? Illuminazione, facciamo degli accessori per illuminazione, per gli alberghi. Cioè, quindi delle lampade tipo? Paralumi. Ok. E come ci sei arrivato a fare un lavoro così diverso? Perché ho conosciuto mia moglie, la mia attuale moglie. Okay. Lei lo faceva già da anni, da 13 anni, quando okay. aveva 13 anni. E ho deciso di metterci in proprio, e da lì poi ci siamo sviluppati. Poi è nato mio figlio e mi sono fermato, cioè nel momento in cui è stato concepito mio figlio mi sono fermato. Senti, ma in quel caso hai venduto il camion, cioè era di proprietà? Come funziona? No, io ero un autista, lavoravo per un'azienda okay. che faceva trasporti aeroportuali. Aeroportuali? Quindi sì, noi facevamo aeroporto. C'è stata una, tipo, la roba più pericolosa che hai trasportato, qual è stata? Pericolosa in termini di merce di valore, che merce pericolosa, principi attivi di medicinali si portavano, tipo all'epoca c'erano 70-80 miliardi di valore. Caricati sullo stesso camion? Ma sì, perché lì bastavano 4-5 fusti, non è che sia il principio attivo dei medicinali. Certo, è una roba. Basta un fustino per dargli dei valori pericolosi, cioè immersi. Stratosferici. Certo, assolutamente. Senti, Marco, invece mi dici da che cliente stai andando, poi ti lascio andare, proprio per curiosità. Adesso stai andando... Il nome? No, che cos'è? È un albergo dove? No, non è un albergo, è un cliente, gli facciamo le lampade, gli facciamo i paralumi. Sto andando a Voghera. A Voghera, ok, va bene. Sì. Marco, senti, ti ringrazio per la storia che, insomma, in questa settimana di racconti di avventure ci stava tutta, un incontro notturno con l'autostop su una strada del nord della Francia. Grazie ancora, in bocca al lupo per tutto. Ti assicuro che è tutto vero, grazie a te per raccontarmi. Ciao Marco, grazie. Ciao. E intanto mi scrive Francesco, probabilmente dal suo camion, che mi dice: hai voglia, sai autostoppisti che ho tirato su nella mia vita? 349-238-6666. Intanto Margherita Ina mi dice che 4 milioni di chilometri sono, siamo sicuri ragazzi? Allora, 4 milioni sono 100 volte il giro della Terra e 10 volte dalla Terra alla Luna. A me sembra strano come numero, però prima Tiziano, quando gli ha detto: ma è possibile? Beh, gli ha detto: beh, la Luna è lì, sono 400.000 chilometri, la vedi, è lì. Se avete voglia di continuare a viaggiare per tutta l'estate, anche stando dove volete, sulla spiaggia, a casa vostra, con una sdraio in montagna, scaricatevi gratuitamente l'ebook di questo programma. Ne abbiamo fatti 3, quindi se non avete letto nessuno avete circa 300 storie da leggere. Se invece non avete letto ancora l'ultimo, ne avete 97, andate sul nostro sito radio24.it, alla nostra pagina, vi renderizza direttamente, credo per la prima volta in vita mia, Paolino, direttamente al sito di Ultima Books, o altrimenti trovati sui vari Google Play o su Apple Store, bla bla bla. È uno splendido ebook, è gratuito, ci sono 97 storie. Altrimenti, se avete voglia di raccontare, inviateci le vostre storie. Voi siete qui, @radio24.it. Grazie a tutti, grazie a Paulino Corleoni, Tiziano Bonini, Margherita Hina. Grazie soprattutto a Marco. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa.